Bella raga, sono Pietro, anche di Solo Vinili Libri, io ascolto Do It Yourself Invasion, Radio Onda Rossa, dai! Ciao, io sono Roberto di Tutti i Pazzi Fanzine e anch'io ascolto Do It Yourself Invasion, lotta dura per la verdura. Hey everybody, this is John Conley of Nuclear Assault. You are listening to Onda Rossa on Do It Yourself Radio. Please call in your support. È la regione intermedia tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la regione dell'immaginazione. Non delegare, partecipa. Eccoci, eccoci. Allora sì, si torna in voce 21 e 19 minuti primi qui sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 in FM della banda romana e laziale ed in diretta streaming dal sito raggiungibile al www.ondarossa.info. E quindi cliccando su Ascolta. Brevemente i contatti della radio, il sito già l'abbiamo detto, dove rimanere aggiornati con le notizie che vengono registrate nell'arco della giornata, oltre che ascoltare la diretta streaming. E quindi potrete trovare tutte le corrispondenze che vengono registrate, nonché i podcast delle trasmissioni andando a cliccare su palinsesto poi divise tra le varie giornate della settimana trovate tutte le trasmissioni di Radio Onda Rossa e quindi potrete ascoltare i podcast. L'email di redazione ondarossa@ondarossa.info, sempre attraverso il sito, andando a cliccare su Sostieni, potete contribuire alla vita di questa radio, nata libera nel 1977 e che è ufficialmente entrata nel 40° anno. E quindi, come dice lo spot che gira in rotazione, aiutiamola a campare altri 400 anni. L'email di redazione già l'ho detta. L'email della trasmissione potete scriverci a fantasma@ondarossa.info per proporci argomentazioni, nonché le vostre autoproduzioni o segnalazioni di iniziative. E potete sottoscrivere a Radio Onda Rossa attraverso lo storico conto corrente postale il 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volci 56 00 185 Roma San Lollo. Come si dice? At least but not last. No. Last but not least. Scusa. Sto attento, eh? Sì, sì, no, no, è concentratissimo. No, grazie Scarf di essere venuto qui. Poi, insomma, troppi ringraziamenti. Sì, troppi ringraziamenti. Troppo affetto, infatti. No, affetto. Affetto, sì, ringraziamenti. Bene, ringraziamenti anche chi se ne frega. Infatti. Sì, il numero di telefono 06. No, perché vado e vengo. C'è uno scrocchio, secondo me, proprio quando arriva alla fine del cursore, che proprio si sensibilizza. Si sensibilizza, sì. Sì, ok. Allora, 06 49 1750. Vi invitiamo nel corso, voi non sapete per quale motivo, però vi invitiamo nel corso della trasmissione a telefonarci. No, sì, dai, lo scopriranno durante il corso della trasmissione. Sì, comunque l'invito a telefonare c'è sempre, di confrontarci, parlarci, dirci delle cose. Poi non so, poi vabbè, offenderci. Non devi limitare. No, va bene. Sono troppo in modalità hippie, mi sa ancora. Sì, no, vabbè. Do it yourself invece, la trasmissione del martedì sera dalle 21 alle 22:30, incastonata nelle good vibrations, esatto, delle trasmissioni che ci circondano. Qua non c'è niente da ridere, invece. Serissimo. Ok. Vabbè, insomma, no, cominciamo subito a cannone, insomma, raccontando un po', diciamo, anticipando quello che andremo, il tema che andremo, insomma, a trattare nel corso della trasmissione. Te vedo un po' così, su di giri, un po' emozionato per questa cosa. Ma no, quello sempre. Okay. Sono un fantasma emozionato, un compagno fantasma emozionato. Emozionale. Allora, no, io, cioè, magari non interessa a nessuno, no? Però noi, insomma, siamo qui questa sera a parlare di un sacco di cose. Però sì, un sacco di cose che hanno anche delle etichette, purtroppo, come a volte molte cose. Poi ne parleremo di tassonomia umana. Bene, da bene, qui bene, ai tempi a venire. Però le etichette ci stanno. Un'etichetta è quella dell'essere post qualcosa, in questo caso punk, oppure di essere la nuova ondata, perché insomma queste due etichette sono state utilizzate molto spesso, soprattutto, insomma, chi faceva giornalismo musicale nei tempi passati, perché comunque da una parte e dall'altra magari volontà di rottura con qualcosa di preesistente. Questo è poco ma è sicuro. Volontà di rottura con qualcosa di preesistente è, secondo me, perfetto. Già da titolo di un disco, no? Sì, potrebbe essere un bel titolo per un disco. Scriviti. Vabbè, è tutto registrato, quindi vabbè. E insomma, tentiamo, insomma, di parlare un po' del post-punk, però il tutto nasce da un discorso che poi parte dalla strada. Sì, assolutamente. E proviamo magari a farcelo anche ritornare. Proviamo a farlo sto circolo vizioso, visto che a noi, insomma, tutto ciò che è vizioso piace. Quindi di far partire delle cose dalla strada e farcele ritornare, farle partire, perché, insomma, proveremo un po' a raccontarvi tutto quello che nasce nel marasma post-punk, che poi in realtà nasce nel marasma punk, ma nasce anche nel marasma che precede il punk, che è un marasma proprio a tutti gli effetti, ed è un marasma molto stradaiolo, no? Nonostante poi forse l'estetica o comunque le connotazioni urbane non siano mai state considerate, come dire, parte di quella che possiamo chiamare sottocultura della strada, o comunque dei fenomeni che siamo stati abituati molto a vedere, ma forse prima si vedevano più spesso, li consideravamo forse più di strada, adesso si sono intellettualizzati, non lo so, che spesso col tempo che passa succede anche questa cosa, che cose che prima erano molto terra terra poi vengono fatte diventare culto, eccetera eccetera, e questa è un po' una cosa tragica. Però Però insomma il lavoretto che volevamo provare a fare era di questo tipo, poi vediamo un po' se ci riusciamo noi, insomma noi un po' di spunti li buttiamo allora, là. Proviamo a tracciare un po' un percorso, cominciamo da quello che abbiamo scelto insomma come origine, poi cioè non vogliamo fare qui enciclopedia cioè insomma non seguiamo un filo come dire cronologico oppure specifico. Storico specifico, no, assolutamente. Partiamo però da un esempio di appunto di sottocultura o di marasma che si coagula nelle strade, e partiamo dal Bromley Contingent. Sì, sì, se vogliamo così un po' situarla almeno a livello temporale tutta sta storia. Sicuramente il Bromley Contingent, che era un gruppaccio di gentaglia di tutte le risme, froci, drogati, puttane, gente che frequentava semplicemente la strada, disadattati in genere, asessuati, c'era veramente per tutti i gusti, che a un certo punto a Londra si inizia a coagulare intorno ai Sex Pistols. Perché succede un po' questa cosa? Se vogliamo, i Sex Pistols sono un po' una creatura che nasce da parte di un impresario molto paraculo che si chiama Malcolm McLaren e la sua ai tempi fidanzata, che era Adrienne Westwood, che ultimamente sfila pure tipo alla settimana della moda a Milano, tanto per insomma comunque connotare bene le situazioni, che decisero di aprire un negozio di vestiti in quel di Londra, fra l'altro fra l'altro a King Street, insomma una delle vie più importanti di Londra, eccetera eccetera, all'interno di un contesto che era prevalentemente fino ai tempi soprattutto da un lato hippie, cioè ci stanno che ne so i Teddy Boys, i Mods, tutto il giro hippie, ci stavano tutto il giro glam, che ancora ai tempi la faceva per la padrone. Il giro glam significa tutto quel mondo di artisti e di musica che va sotto Alice Cooper e in particolare David Bowie e T-Rex, Gary Glitter, questi personaggi qua. Bowie in questa cosa la fa assolutamente da padrone, perché poi se andiamo a vedere era molto più stradaiolo di quello che noi vediamo oggi. Oggi Bowie lo vediamo filtrato attraverso, no, tutto quello che sarà fra l'altro anche la rivoluzione sessuale gay degli ultimi 20-30 anni, ma ai tempi non era così, era un personaggio molto, come dire, beh, alla portata di tutti, molto visto, come dire, come icona proprio dalla strada. No, questa cosa che tu stai dicendo mi stimola poi su sì, su quanto sia importante poi anche, cioè, come dire, il tessuto di provenienza appunto di un artista, no? Poi a microfoni spenti insomma stavamo dicendo, ma quel gruppo lì veniva dall'est di Londra che era più povera, quell'altra West Londra, cioè comunque David Bowie, bianco, quasi albino, da Brixton degli anni del fine anni 60, insomma. Brixton, che significa comunque il quartiere nero di Londra. Cioè, infatti nella musica di Bowie questa cosa della musica nera risuona, come risuonerà anche in tutto il punk, anche se non ce ne siamo mai bene accorti, però risuona, ci sta questo rapporto con la cultura nera, con la musica nera e in particolare anche col reggae, visto che insomma vediamo fra un prima reggae e un post reggae che ci avremo anche fra poco in trasmissione. Però Bowie, ripeto, si può partire da lì come si può partire dalla New York insomma del 75-76, il famoso locale CBGB's, ma comunque tutto quel mondo insomma che durante i primi anni 70 si è sviluppato a New York, quindi parliamo di Velvet Underground, New York Dolls, Stooges. Come dire, questa roba qua ai tempi era più o meno come adesso Rihanna e Madonna, cioè con le dure differenze ovviamente dal punto di vista della produzione musicale e anche insomma di quello che veniva raccontato, perché quello che veniva raccontato da tutti questi gruppi, tutto quello che avevano in comune era un'attitudine che faceva come dire della rivolta dei disadattati, io non saprei come dire, proprio del proletariato, quello più lugubre, che normalmente siamo oggi come oggi il decoro urbano, no, ci fa tenere lontano, quindi come diciamo prima è un mondo insomma di promiscuità sessuale molto accentuata, di droghe. Ricordiamo insomma che l'AIDS fra l'altro è roba che arriverà poi successivamente negli anni '80, quindi un mondo insomma in cui la sperimentazione sotto tutti i punti di vista era il punto nevralgico della vita di chiunque viveva la strada, sia perché doveva vivere di espedienti e sia perché comunque viveva di relazioni che costruiva durante il vagabondaggio quotidiano, magari alla ricerca di una dose o alla ricerca di come svoltare la giornata, e di conseguenza insomma questo tessuto sociale era importante. E se da un lato negli Stati Uniti lo conosciamo insomma attraverso tutto questo giro di persone, mettiamoci David Bowie in Inghilterra, arriviamo diciamo per farla breve perché sennò insomma dovremmo parlarne per ore e ore, al 76 a Londra, in cui come dicevamo prima Malcolm McLaren torna da New York e decide di fare questo exploit. Lui vabbè veniva un po' dal mondo situazionista, cioè aveva una serie di idee in testa e aveva accanto comunque Vivien Westwood, che dal punto di vista insomma proprio della produzione e del riciclo della moda, del mondo della moda, standoci un po' con un piede dentro un piede fuori, era effettivamente una che sapeva il fatto suo. Quindi aprono questo negozio e decido che la cosa migliore per lanciare il negozio è utilizzare alcuni dei frequentatori del negozio, ovvero quelli che poi conosciamo come i Sex Pistols, per fare una band che in realtà lanci a tutto tondo che spari. Sì, esatto, a tutto tondo su quello che è l'industria culturale di quei tempi. Ricordiamoci che a New York prima c'è stato Andy Warhol, che con i Velvet Underground ha fatto un qualche cosa di simile, più per caso che per scelta. Ma là siamo in un mondo che comunque è molto artistico, cioè Andy Warhol comunque tutt'oggi è considerato, per quanto insomma facesse una vita frequentando gente tipo Lou Reed, che per i tempi insomma non è quello bello e simpatico che conosciamo oggi, comunque Andy Warhol insomma era un artista di fama internazionale, insomma il padre della pop art, tutte queste pippe mentali che si fanno su queste cose. E da là abbiamo due sciacalli pazzi, folli, tipo Malcolm McLaren e la compagna, e un branco di ragazzini però molto simili effettivamente a tutto quello che era il giro di personaggi che ha animato la New York fino diciamo dei primi anni 70, di quella New York nera, buia, scura, fatta appunto di Lou Reed, di Patti Smith, di New York Dolls, che per chi non li conosce comunque era un gruppo, una band rock punk che comunque andava sul palco vestita da donna, insomma tutto un giro di personaggi che avevano ben poco a che fare con tutto quello che era da un lato il mainstream, quello commerciale, e dall'altro il mainstream diciamo più hippie, più collegato insomma con una visione del mondo di giurassica anche, no? Rispetto a quei tempi, no? Cioè. Sì, ma assolutamente. Già giurassica. Purtroppo già giurassica, perché comunque insomma il movimento, lasciamo perdere quello che è stato magari John Lennon, che vabbè forse è un personaggio un po' più particolare, però insomma tutta quella roba lì ormai aveva un po' stufato, era considerato molto piccolo borghese. Questo lo possiamo dire, non tutto, però una buona parte di gruppi musicali, cioè, di scene, di situazioni, eccetera, eccetera. Cioè, gli anni, insomma, delle mega star, non so, già Pink Floyd, oltre a Rolling Stones, non so, Led Zeppelin, la figura della rock star. Uh-huh. Commerciale potente che arrivava già con i Boeing, mega tour mondiali, insomma c'era questo, e dal lato c'era pure una cultura. Guarda, stavo leggendo l'altra sera mentre mi documentavo pure per la trasmissione su un libro, Maureen Tucker, che era la batterista dei Velvet Underground, che diceva che gli hippie si differenziavano da noi. Dice proprio questa cosa, che insomma forse è pure un po', come dire, esagerata, perché sicuramente non tutti, cioè stiamo un po' categorizzando, stiamo un po' tagliando con assolutamente decenni interi proprio. Però insomma fa abbastanza specie una dichiarazione di questo genere, nel senso che era una serie di interviste e lei diceva gli hippie in ogni caso avrebbero pure un posto dove tornare una volta che si sarebbero stufati di fare gli hippie, noi no. E probabilmente per farla insomma, per metterla giù insomma proprio nera, scura, senza ritorno e senza futuro, proprio come era a quei tempi, tutto questo crogiuolo, insomma, di situazioni, effettivamente era un delirio. Ed era un delirio sotto tutti i punti di vista, nel senso che proprio delirava, quindi andava fuori linguaggio e fuori contesto in qualsiasi posto tu le mettevi. E da un lato abbiamo tutto questo, dall'altro abbiamo anche tutto un altro mondo, che è quello della comunità nera, che sia negli Stati Uniti che in Inghilterra, è molto fonte di tutti i discorsi che andremo a fare questa sera. E vabbè, noi ci siamo un po' dilungati, però vai. Allora, io direi che, insomma, stacchetto, Personality Crisis, loro sono i New York Dolls. Insomma, New York Dolls, giusto per affacciarci su quello che è un po' l'ispirazione di quello che stava accadendo da lì a qualche anno a Londra. Sì, esatto, anche se poi il bello è che sentire magari New York Dolls adesso per radio fa un effetto un po' veramente retro. Però se te li vedi mentre cantano una canzone tipo questa qua, che parla fra l'altro di identità di genere che non si conosce bene qual è, e loro erano, ricordiamolo, erano tutti vestiti da donna, cioè che era il minimo, insomma, noi ci siamo arrivati con le sorelle bandiera a fine anni 70, insomma, a fare una cosa del genere in maniera, insomma, molto pop, quindi insomma stavano veramente un pezzo avanti rispetto a tante questioni. Però ci eravamo fermati prima sulla questione, insomma, della comunità nera. Se da un lato che, insomma, tutto questo giro di persone frequentava spesso a New York un locale che si chiama Stonewall, dal quale parte la rivolta fondamentale che fa uscire fuori la comunità gay all'interno, insomma, del panorama newyorkese, dall'altra parte tutta la gang, tutto il giro di persone, non so come chiamarlo, tutto questo crogiolo di mondo che si incontra a un certo punto con il negozio di Malcolm McLaren e con i Sex Pistols, è in realtà molto collegato sia da un lato con tutto il mondo omosessuale e dall'altro con tutto il mondo nero. Però diciamo, sorvoliamo su tutta una parte molto accademica sul rapporto fra le sottoculture bianche e le sottoculture nere, per quale, se volete, non siamo forse neanche in grado di parlarne bene in questi termini, però se volete ci sta un libro di Dick Cabbage che si chiama Sottocultura, il fascino di uno stile naturale, in cui lui studia effettivamente il rapporto fra le sottoculture bianche e nere, soprattutto in Inghilterra, quindi parliamo di Rocksteady, di Teddy Boys, di Mods, di Skinhead e di Punk. Però attraverso, diciamo, una luce che è molto accademica e sinceramente a volte lascia un po' il tempo che trova. Noi possiamo parlarne in altri termini, ovvero nel fatto che all'interno, se già prima abbiamo parlato di Bowie che arrivava comunque da Brixton e che comunque ha inseguito in qualche modo la musica nera nell'arco di tutta la sua carriera, lasciamo perdere la parte, diciamo, più glam tipo Ziggy Stardust e queste cose qua, però lui ha fatto dei dischi proprio soul, cioè è andato proprio negli Stati Uniti a cercare i cantanti e i musicisti soul con cui fare dei dischi tipo Young Americans o tipo Station to Station, per poi ritornare poi con Brian Eno. Vabbè, sorvoliamo su questo. La comunità nera è importante e soprattutto il rapporto con alcune tipologie degli immigrati neri in Inghilterra, che sono soprattutto delle West Indies, quindi giamaicani e di altre nazioni, insomma, che sono state colonizzate comunque dall'Inghilterra durante l'Ottocento e il Settecento. Questa presenza della musica nera la ritroviamo in tutto questo contesto. Se entravi in un locale a Londra si sentiva rocksteady, reggae, quella era la musica popolare. Assolutamente. Di sottofondo. Fra l'altro il 77, che è un anno doppio, all'interno della comunità nera aveva visto come uno degli anni possibili dell'apocalisse. Per loro l'apocalisse non è come la vediamo noi bianchi. Soprattutto, insomma, dopo l'avvento del rastafarianesimo in Giamaica eccetera eccetera, mi ha visto come l'anno della rinascita. Nel 76 c'è stata e anche prima ci sono state le rivolte durante il carnevale di Notting Hill, importantissime a Londra, che hanno lasciato comunque dei segni indelebili nella comunità in generale di strada. E non a caso ci ritroviamo come dicevi tu, che spesso nei locali prima, anche nei concerti punk o anche dopo, venivano fatte selezioni fondamentalmente, insomma, di musica giamaicana in tutte le sue salse, ska, rocksteady e reggae. Dall'altra, molti che ascoltavano quasi esclusivamente reggae, fra cui Jordan, che era il commesso del negozio di Malcolm McLaren, ma lo stesso Johnny Rotten era uno che ascoltava prevalentemente reggae. Ricordiamoci i rapporti fra i Clash, che ne so, e Don Letts. I Clash fanno delle cover reggae nel primo disco, Police and Thieves. Che, insomma, fra l'altro, insomma, è uno dei pezzi che uno conosce più di tutti, no? Certo. dei Clash, che è, insomma, un pezzo di Junior Marvi cantato in falsetto originariamente e che i Clash ripropongono. Ja Wubble, che era un DJ reggae, diventa il bassista dei Pill, che probabilmente è il gruppo che forma Johnny Rotten quando finiscono i Clash, che, insomma, uno dei gruppi, insomma, caposaldi di tutto il giro della New Wave. Quindi questo rapporto c'è in maniera importante, insomma, delle sottoculture nere, in particolare giamaicane, soprattutto a Londra. Dall'altra c'è tutto un altro mondo, che è quella della comunità dei locali omosessuali. Ricordiamo, insomma, che negli anni 70 non era proprio semplicissimo vivere una vita da omosessuale, manco oggi, per carità, però 30 anni fa era ancora un po' più complicato, nonostante ci fosse, come diciamo prima, anche a New York, una serie di luoghi, di posti che venivano, insomma, in cui si andava soprattutto a rimorchiare o a fare marchette. Ai tempi c'era anche questo tipo di situazione, e in cui insomma ci si ritrovava, erano dei luoghi in cui si suonava soprattutto disco music, fondamentalmente. E quello che succede è che ritorniamo lì, negozio di Malcolm McLaren, Sex Pistols e tutta sta accozzaglia di gente che in qualche modo segue questo gruppo fantastico, che in realtà aveva fatto 2-3 canzoni, ma che in realtà era dirompente, perché era esattamente, come dire, c'avevi davanti, è come io e te che mo se stiamo a guardare in faccia, c'avevo davanti uno come me che raccontava e diceva le cose che avrei detto pure io, senza essere un gran figone con lo strumento, perché in realtà erano scarzacani come molti di noi, e quindi c'avevi di fronte quello. Quindi la gente che andava a vedere i Sex Pistols erano come i Sex Pistols, era gentaccia, non era gente molto, c'era veramente di tutto in mezzo, e spesso, non sapendo che fare durante la sera, andavano nei posti dove non li cacciavano. Cioè, che è una cosa proprio banale, no? Se te vai adesso, che ne so, a Magnate, voglio dire, mo adesso forse ci riusciamo un po' a mimetizzare di più, adesso la metropoli è diventata un luogo non del riconoscimento ma del mimetismo. Negli anni 70 non era così. Cioè, se uno di Torpignattara ai tempi, o di Torbella Monaca adesso, andava in centro, lo si riconosceva subito, se non altro per come era vestito, per quello che c'aveva addosso. E in più la cultura pop, che comunque, insomma, era importante, faceva in modo che molto spesso questi ragazzini, stavo parlando comunque di gente che c'era 18, 19, 20 anni, disadattati, che andavano comunque in centro, e questa cosa poi la ritroveremo pure qua a Roma, in Italia, perché un po' ce la siamo persa, ma c'è stata per tanto tempo, per cui si andava comunque in centro, perché in qualche modo andava in città, fondamentalmente, quindi andava dove succedevano le cose, dove incontravi le persone, perché comunque ci si incontrava per strada, ci si incontrava nelle piazze. Tutti questi disadattati si trovavano uno di fronte all'altro, una persona uguale a lui, allo stesso tempo magari poi se la portava nel locale che solitamente frequentava, e spesso anche a Londra erano locali gay, locali in cui veniva, come dicevamo prima, proposta fondamentalmente disco music, ma in cui comunque, come dire, ci aveva un agio di stare, i drink costavano poco. Nessuno ti veniva fondamentalmente a rompere le scatole, o comunque come dire, potevi frequentarli. Spesso erano aperti anche tutta la notte, un'altra cosa non banale. Lasciamo perdere la situazione nei mezzi di comunicazione nella città di Roma oggi. Comunque, insomma, muoversi fra città, fra quartiere e quartiere, anche in una città come Londra, soprattutto se si viene, insomma, dalla penisola di Londra, dintorni di Londra, significa anche ore, insomma, di metropolitana per arrivare da un posto all'altro, e quindi di conseguenza come dire, tappe intermedie fra da dove eri stato magari a passare la prima parte della serata alla seconda, insomma la notte si viveva in tutta la sua completezza, quindi spesso c'era necessità di trovare, che ne so, un appoggio durante lungo la strada, anche alle 6 di mattina, per magari stare lì, beccare magari qualche altro amico, farsi un'altra bevuta, cercare magari droga, trovare degli incontri, insomma. E i locali gay in questo tipo di situazione, insomma, avevano una loro importanza proprio per tutta una serie di connotazioni, fra cui quello di fare anche degli orari molto tardi durante l'arco della notte, per cui poi alla fine ci si ritrovava là. E il Bramley Cottage, noi non abbiamo parlato di alcuni personaggi, insomma, che hanno animato questo gruppo, insomma, che segue i Sex Pistols. Quelli più famosi sono quelli che poi sono diventati a loro volta dei gruppi o dei diciamo, insomma, chi compone tra i componenti del Bromley Contingent, Siouxsie and the Banshees, Steven Severin, Billy Idol per un certo periodo, e tanta altra gente. Questi, diciamo, forse sono quelli più famosi. e tanta altra gente che non poi si è persa per strada, ha fatto altre cose, ma che comunque ha animato in maniera importante tutto quel contesto. E questa era il coagulato, insomma, che si va a formare appunto in queste situazioni. Che succede? Che a un certo punto la fama, o meglio, ci si accorge del Bromley Contingent e se ne accorgi, cioè in Inghilterra se ne sono accorti che sono arrivati a un certo punto i Sex Pistols e tutta questa marmaglia appressa a loro in alcune trasmissioni televisive in cui sono apparsi, insomma, vestiti come erano vestiti, che va sicuro, insomma, pure a vederli oggi fanno abbastanza effetto per chi magari ci ascolta e non ha ben presente, con attitudine poco amichevole, assolutamente, verso i media. Assolutamente no, insomma, i Sex Pistols sono stati un po' banditi ovunque intorno, diciamo, durante tutto il 76 e il 77, pure dopo il disco, perché comunque dove andavano succedeva il panico, risse, un macello veramente. Dall'altra parte, perché comunque le loro apparizioni televisive, in particolare questa in cui c'erano comunque tutti questi personaggi che le accompagnavano, che erano una trasmissione che più o meno è l'attuale, no, forse Top of the Pop è troppo, insomma, è una trasmissione tipo della terza o quarta rete britannica, che però si occupava di musica e di fenomeni di costume, in cui c'era un presentatore classico, tronfio, cicciottello là, che guardava le zinne alle ragazze mentre stavano lì, eccetera, eccetera, che è stato uno dei motivi, diciamo, del casino che è successo, in cui si presentarono, insomma, i Sex Pistols con quest'aria della serie andate tutti a fare in culo, non vogliamo parlare con voi, più o meno, durante la televisione, e in più tutta una serie di personaggi intorno, fra cui Susie, per esempio, che stava seduta accanto a questo, che gli guardava le tette e che gli iniziava a dire: te mi stai guardando le tette? Tutto questo in diretta televisiva nel 76, quindi, insomma, c'era, come dire, una sorta di non pensa questa cosa, e si presero, insomma, più o meno ammazzate durante la trasmissione. Questo qua portò un po' alla ribalta tutto il fenomeno punk, fu uno di quelle cose anche probabilmente architettata d'arte della serie, portiamo una serie di folli dentro una televisione che probabilmente non ha capito bene che tipo, con chi c'ha a che fare, e vediamo che effetto fa. Questa è, diciamo, l'attitudine situazionista alla Malcolm McLaren. Dall'altra, effettivamente, questa cosa poi c'ha un effetto, c'ha l'effetto che comunque tanti che vedono questa masnada di gente così inusitata addirittura andare in televisione e sbeffeggiare il conduttore di turno, e chiaramente questa cosa ha una sua forza mediatica anche sul resto, insomma, della gente che ha visto semplicemente questo tipo di scena. E di conseguenza, insomma, come dire, all'in poi questo Bromley Contingent è diventato, insomma, un po', come dire, dall'in poi il punk è boom. Il punk è boom, insomma, andiamo un po' veloci, andando, insomma, a ricollegarci su quello che è il tema un po' centrale di questa trasmissione, appunto parlare di quello che c'è post. Quindi sì, il punk diventa, ecco, boom, membri del Bromley Contingent, insomma, Susie c'ha il suo corso ben preciso, Sex Pistols decadono, insomma, la storia la sappiamo, Billy Idol diventa, insomma, il pop, la pop star del punk, e questo, insomma, però permette, insomma, anche ad altre entità che componevano, insomma, il Bromley Contingent, anche una voglia di sperimentare, no? Proprio per andare in rottura con tutto quello che era diventato il punk come fenomeno pop commerciale, cioè possiamo dirlo, no? Insomma, tutto il punk del 77 poi si trasforma in quello che magari stavano contestando, no? Bah, sì, un po' così, no? Diciamo, al di là dei tre gruppi fondamentali, diciamo sempre Sex Pistols, Clash e Damned, sicuramente, insomma, i gruppi punk fra il 77 e gli anni a venire ne sono usciti gruppi, alcuni centinaia, per gruppi dell'epoca, insomma, che in quegli anni facevano il disco punk, Sì, c'era di tutto, assolutamente. Diventa un fenomeno di costume, diventa un fenomeno assolutamente commerciale. Come è stato assorbito poi in Italia, no? Sempre negli stessi anni più o meno. Non si può parlare di punk di strada già nel 77 o giù di lì. No, secondo me non lo è, lo diventa probabilmente successivamente, anche se, ti ripeto, cioè, tutta questa gente qua in qualche modo Sex Pistols, Clash forse no, ma poi noi non, cioè, non, se c'eravamo eravamo molto piccoli, ma quindi, molto piccoli. Se volete contribuire il numero è sempre lo stesso, 0649 1750, quindi. Beh, comunque tutto questo non per denigrare, insomma, cioè, senza almeno questi tre gruppi non ci sarebbe stato probabilmente niente di tutto quello che è venuto dopo, però allo stesso tempo tutto questo gran casino di cui abbiamo parlato fino adesso, perché veramente, insomma, fra l'altro un incrocio fra posti molto differenti in cui le persone si mescolano, perché fra Londra e New York ai tempi c'era veramente una mescolanza in questo tipo di contesti, se non altro di quelli che provano a fare di qua e di là, perché poi provano a fare gli impresari. Parliamoci chiaro, quando parliamo di Malcolm McLaren da un lato e di Andy Warhol, parliamo di gente che comunque si è messa lì per cercare di tirarci fuori i bei soldoni da sta roba, e c'è pure riuscita, assolutamente è riuscita a fare quello che hanno voluto fare. E quando dicono che il punk nasce e muore con i Sex Pistols è anche vero sotto questo punto di vista, perché quello è il classico, erano come le Spice Girls, parliamoci chiaro, come un gruppo costruito a tavolino, una boy band punk, però in realtà poi sì, questo è pesante, possiamo pure dire sì no, però rimaniamo sempre siamo iconoclasti, sì, pure con i Sex Pistols, dai, per favore, perché sennò i Sex Pistols però è pure vero che quella cosa lì effettivamente ci ha avuto una forza dirompente per tantissime persone che è andata completamente al di là, insomma, di quello che potevano essere gli intenti, perché, ripeto, questa mandria di sbroccati e di disadattati delle periferie, in quella cosa ci si era riconosciuta tanto, anche se era una cosa creata d'arte per fargli comprare i dischi e per fargli mettere il giubbottino, la maglietta di Stroi, perché esiste anche una maglietta di Stroi fatta appositamente dal negozio di Malcolm McLaren per fargliela comprare, che è una di quelle più famose, no? Con il crocifisso rovesciato, la svastica, cioè, forse se non mi sbaglio c'era un'immagine di Lenin in quella, cioè una accozzaglia, no? Di simbologia assurda, una Macedonia. Però è pure vero che, insomma, al di là dello specchietto per l'allodole, questa cosa riesce a aprire effettivamente dei canali dal punto di vista proprio della possibilità di comunicazione, e non a caso, insomma, tutta questa cosa succede nel 77 pure qua. Il 77 ha avuto un impatto gigantesco, lasciamo perdere che qua c'è stato un movimento, insomma, e non lo lasciamo perdere perché noi siamo figli in qualche modo di quella roba là, anche se la parola figli mi fa schifo, però effettivamente quel movimento è stato molto attento alla comunicazione, molto attento a come costruire le proprie fonti di informazione, eccone qua una che dura da 40 anni, e allo stesso modo probabilmente anche lì, in un altro contesto che era quello musicale, si iniziò a pensare che un gruppo musicale fosse un modo per comunicare e soprattutto per tirarsi fuori da quella merda quotidiana che si viveva. Oggi questa cosa è stata molto, si dice moltissimo, no? Che, per esempio, nell'ambito dell'hip hop probabilmente una cosa molto simile a quella che è avvenuta nel 76-77 a Londra. No, poi mi interessava pure sottolineare, insomma, siamo iconoclasti, però la figura l'icona, insomma, che si usi, tutto il vestiario di Siusi poi aveva origine appunto nelle notti londinesi, quindi attingendo dal bondage. Cioè, veniva comunque da quel vissuto lì, no? Assolutamente. Siusi non ha mai fatto si è mai vergognata di raccontare che ha fatto la mistress per dei clienti, quindi a pagamento, insomma. La mistress è colei che frusta il cliente nel rapporto sadomaso, solitamente. Steven Severin, che è il bassista del gruppo Siusi and the Banshees, si chiama Severin per una frase di Venus in Force, di Lou Reed, dei Velvet Underground, che dice proprio: Severin parla sottovoce, Severin inginocchiati, assaggia la frusta, in amore non si risparmia, assaggia la frusta e ora sanguina per me. Quindi da un lato, insomma, storia di vita vissuta, perché comunque, insomma, c'è anche chi ci campava facendo sta roba, oltre, insomma, come dire, avere anche il suo lato di piacere probabilmente e di desiderio in tutto questo. Questi aspetti presi come linguaggio e fatti urlare, insomma, da un microfono, diventano un messaggio importante e seminale poi negli anni a venire, no? Dall'altro, per esempio, c'è tutto il discorso della svastica, dell'utilizzo della svastica, da un lato spesso utilizzato come forma massima, no, di spregio di tutto quello che può essere il mondo in assoluto, no? Qual è il simbolo peggiore che te puoi mostrare al mondo? La svastica. E quindi me la metto sulle tette, come spesso faceva Susie in quei tempi. Dall'altra ci sta pure, per esempio, un'altra cosa che è molto collegata con la scena omosessuale, che è il camp, il travestitismo, l'arte di rottare attraverso i segni qualche cosa. Ai tempi ne parlò tanto Roland Barthes, comunque lasciamo perdere tutto questo delirio intellettuale. Molte delle personaggi del Browning County, soprattutto la parte omosessuale, stava in fissa con un musical che era Cabaret con Liza Minnelli. Penso, insomma, molte all'ascolto probabilmente avranno avuto la possibilità di vederlo, se no magari date un'occhiata, perché interessante. Liza Minnelli lì è vestita in modo particolare, esatto. Contate che è un musical ambientato nella Repubblica di Weimar, in cui il nazismo sta cominciando ad attecchire, e la Seminelli è vestita in un certo modo, in un modo che spesso ritroveremo nella iconografia post-punk, una sorta di divisa trasformata, insomma, adattata a un palcoscenico, quindi esatto, una pacchianizzazione di quello che di quello che può essere una divisa nazista, no? Esatto. Però poi, cioè, comunque un musical, è quella roba lì, insomma. L'attore non protagonista che fa, diciamo, il maestro di cerimonia, adesso non mi ricordo, insomma, voglio dire, stiamo a parlare comunque di cultura pop, veramente a tutti gli effetti, che hanno preso gli Oscar per quel film, quindi era una roba super super guardata e seguita da un sacco di gente. Quindi questo dici: ah, perché se vestono di nero? Sì, voglio dire, forse è la cosa più semplice, più a buon mercato spesso che puoi trovare. C'è anche pure un, come dire, rincorrere delle cose che nella cultura pop ci stanno. Ok, no, perché ne stiamo parlando da circa mezz'ora. No, però cioè vagliela spiegare però a un compagno del 1980 a Roma che ti ritrovi, è un po' complicato, ci vuole un po' di tempo, quindi le reazioni riportando questa cultura, questa sottocultura, poi ad esempio nelle strade romane di inizio anni 80, non è stato facilissimo, assolutamente, ma come penso non era neanche facile ai tempi. Vi racconto questo, poi fra l'altro abbiamo parlato sempre, abbiamo fatto sentire praticamente un cavolo, perché pessimi. Vabbè, siamo pessimi. Comunque, per raccontare un aneddoto di tutto questo delirio, Susie si presentò in un locale che era, che ne so, il corrispettivo più o meno dei Castroni qua a Roma, con questo suo amico Jordan al guinzaglio, tirato come un cane. Quindi un'enoteca di lusso, no? Un bel posto dove vai a mangiare, che ne so, il salmone dello Yorkshire, non lo so da dove viene il salmone. Comunque, vabbè, una roba così, con lui al guinzaglio, e si sedette, ordinò un calice di champagne per lei e una ciotola d'acqua per il suo cane. E questa roba, cioè, voglio dire, sì, può lasciare pure il tempo che trova, però insomma, come dire, ci troviamo di fronte a persone che non si preoccupavano più di tanto di andare a sfidare semplicemente quello che era il canone delle cose che non si possono fare. Guardare che la Londra degli anni 70-80 non era proprio una cosa tenera, non è manco oggi, e non era assolutamente allora, per cui, come dire, andare a irrompere in uno spazio pubblico alto borghese in questa maniera qua aveva sicuramente un effetto dirompente. Andiamo a sentire un po' di musica. Ok, no, c'ho pronto il primo pezzo, non è a caso. Siouxsie and the Banshees, lo vuoi annunciare te? Dovrebbe essere make up to break up, ovvero truccarsi per spaccare. Una dai, cosa del genere. Siete sempre all'ascolto dell'87.9 di Radio Rossa, questa è Do It Yourself in Beijing. Oh, questa era Siouxsie and the Banshees, insomma mi piaceva insomma andare insomma a sottolineare nuovamente questo aspetto qui della sessualità sperimentale nascosta che viene insomma dalle notti londinesi. Appunto viene portata attraverso il linguaggio estetico da Siouxsie and the Banshees e non so, cioè è importante questa cosa qua, cioè come uno dei cardini della sottocultura punk del 77, questo aspetto della sessualità molto importante, cosa che magari mi chiedo ai giorni d'oggi se una sottocultura, se non so quanto la sessualità sia un aspetto o un cardine di una sottocultura. Beh, secondo me lo è quasi sempre. Il problema è che almeno per come ci viene raccontata, soprattutto edulcorata, no, attraverso gli anni che passano, questa roba non ci arriva fino a oggi. Allora, no, non ci riesce proprio arrivare. Ok, no, ma però se te già semplicemente guardi la gente, chi è che fa come si veste, secondo me tante cose sono abbastanza chiare. Allora, partiamo sempre dal 77, perché poi pure lì questo aspetto qui non è sempre ben delineato e c'ha un corridoio insomma libero dove scorrere, no? Sempre nel 77, parlavamo prima dei Clash, per esempio, questo aspetto non mi sembra ce l'abbiano avuto, no, come immagine e linguaggio, no? Assolutamente no. Loro punk sono... Sì, ma punk con le mimetiche, punk molto... Ma io li amo i Clash, c'è un gruppo che adoro in tutti i sensi, però c'hanno un immaginario completamente macista, questo è fuori di dubbio, come ce l'hanno altri gruppi, soprattutto nelle ondate successive del punk, per esempio, penso uno gli Exploited, uno per tutti, no? E addirittura sono andati a fare una canzone che si chiama Sid Vicious Was Innocent, che è bellissima, però insomma pure lì lascia un po' il tempo che trova. Ma infatti no, hai nominato gli Exploited, che è molto importante, perché dopo insomma questa esplosione del punk del 77 si va a frammentare un po' a livello seminale, poi no? Non so come allora sì, si vanno insomma, mi ero perso un attimo con seminale, vabbè, comunque e appunto sì, dopo il punk del 77 da una parte si nascono insomma delle attitudini più new romantic, no? Cioè... Bah sì, allora se vogliamo dire che esiste una scena post punk dopo il punk, no, allora perché effettivamente cioè era frammentata, sì, un tale commissione di roba new romantic. New Romantic in assoluto è diventata la cosa più figa dopo il punk, a Londra almeno. Post-punk come più corso sperimentale di rottura con i cliché del punk. Che però cioè, poi assume delle connotazioni che non sono assolutamente connotabili, secondo me. Ed estremizzazione del punk, che è tutto lo UK 82, quindi Exploited, tutti certo. Gli anarcho-punk. Sì, sì, escono fuori una serie di filoni, di cui probabilmente quello New Romantic è quello più commerciale, che sarà quello che poi darà vita tutta la dance commerciale e alcuni gruppi importantissimi per gli anni 80, che sono i Duran Duran, gli Spandau Ballet, che vengono fuori assolutamente a quel tipo di contesto, però un'altra serie di sentieri che si percorrono sono un lato quella di tutto questo calderone che appunto è il post-punk e la new wave, che in realtà racchiude in sé una serie di sperimentazioni musicali che vanno dai Talking Heads, che non stanno manco a Londra, agli X-Mal-Deutschland che stanno in Germania, e tutto quello che viene in mezzo, che possono essere una serie di gruppi, dalla Siouxsie già citata a ovviamente i Joy Division in assoluto, che probabilmente sono stati veramente uno dei cardini di tutto questo discorso, i Cure senza dubbio, Killing Joke, cioè gli Wire, i Chameleons, i Virgin Prunes, un sacco di gruppi, che i Magazine, veramente ce ne stanno una miriade, tutti secondo me molto importanti e tutti che comunque hanno delle attitudini molto differenti musicalmente. Se da un lato nel punk ci sta un gruppo che non c'entra nulla, che sono gli Stranglers, che fra l'altro sono il gruppo più macista di tutti e più bravi a suonare di tutti, perché venivano tutti quanti dal conservatorio eccetera eccetera, che hanno fatto dei dischi belli, ma secondo me dopo, quando hanno capito che non era il loro ambito quello il raggio d'azione, ci sono finiti, perché suonavano in quel periodo là e sono finiti in quel calderone. Però no, giusto se, per sempre per ripartire, no? Stiamo parlando comunque di un come dire, di diramazioni da quello che c'era, insomma, nel boom del punk del 77, proprio come atto di rottura verso quell'esplosione lì, no? Assolutamente, ma ed è una rottura musicale a tutti gli effetti, ma anche dal punto di vista, insomma, di, come dire, di attitudine, di messaggi portati, di tipo di comunicazione e anche di forma di stare, di modalità di stare sul palco per i gruppi, di modo di vestirsi, di anche modalità di fare le cose. Ricordiamoci che comunque i Clash, i Damned e i Sex Pistols stavano tutti con le major. I Sex Pistols, vabbè, prima gli hanno rubato i soldi all'EMI, poi alla Virgin. I Clash stavano con la CBS, i Damned, se non mi sbaglio, con la Polydor, o forse pure loro con la Virgin, non mi ricordo più. Però comunque, insomma, stiamo parlando di un ambito di etichette mainstream. Nel post-punk, e per post-punk ci metto pure, lo so che molti saranno telefonare, cioè, comunque, e dire c'è i morti per telefono, i Cress. Per me sono un gruppo post-punk, perché non sono un gruppo punk per quello che noi conosciamo come punk. Se lo so reinventato il punk, l'hanno fatto diventare un'altra cosa rispetto a quello che era, perché secondo me stanno molto più dentro questa attitudine che abbiamo, di cui abbiamo parlato stasera, che non ha connotazioni sessuali di un certo tipo, che fa man bassa di tutto quello che trova intorno dal punto di vista musicale, e che soprattutto riparte da se stesso. Probabilmente è una delle cose che ricorre tanto, no? Nessuna autorità se non te stesso. Nessuna autorità se non te stesso, e soprattutto nessuna speranza, visto che probabilmente il 77, soprattutto quello punk, ci racconta che non c'è più futuro per nessuno. L'unica maniera probabilmente per tirarsi fuori dalla merda quotidiana è provare a ripartire da se stessi, ma non per in un'ottica che è quella che poi è diventata successivamente, almeno qua, ovvero ci facciamo da soli, ma perché non c'è altro, proprio è la base logica da cui partire, sì, se stessi e soprattutto il proprio corpo, che è una, secondo me, un punto nevralgico attraverso il quale si snoda tutto il post-punk e la new wave che andremo a conoscere, che vede proprio il corpo e anche nella questione pure, per esempio, sia della promiscuità sessuale, dell'uscire fuori da quello che erano gli sgabuzzini dei locali, per esempio, omosessuali. L'omosessualità la troveremo dirompente durante tutti gli anni 80, soprattutto nei gruppi pop, non che prima non ci sia stata, ma è diventata finalmente visibile. Poi qua non avevamo capito niente, però insomma era molto visibile soprattutto in Inghilterra. Quindi questo punto nevralgico del partire da sé, dal proprio corpo, si trova invece tantissimo, in maniera dirompente, in tutti i gruppi new wave. Questa è una cosa proprio assoluta secondo me, in un clima repressivo pesantissimo di inizio anni 80 in Inghilterra, insomma gli anni della Thatcher, uh-huh, della signora di ferro, e quindi insomma un motivo, insomma, di emergere, di contrastare questo clima nero. Assolutamente. Io, visto che parlavi di ferro, passerei a ascoltarci un pezzo di Metal Box dei PIL, Public Image Limited, che è il gruppo che ha, diciamo, costruito Johnny Rotten dopo i Sex Pistols, insomma dopo la fine dei Sex Pistols, e che questo disco uscì dentro un cofanetto de ferro, proprio, infatti si chiama Metal Box di quello, cioè te andavi a comprare il disco, in realtà c'era sto tondo de ferro dentro il quale c'erano sti quattro extended play a 45 giri, E se voi sentite, insomma, stiamo parlando del 78, se non mi sbaglio, quindi insomma un anno dopo, un anno e mezzo, forse 79, insomma un anno e mezzo, due, post Sex Pistols, Johnny Rotten faceva sta roba. Già abbiamo parlato prima che il basso lo suonava già Wubble, che era un DJ reggae che si era imparato a suonare il basso una settimana prima. Comunque ecco, facevano sta roba. Allora già cominciamo ad avvertire nel suono qualcosa di diverso da il punk classico. Mazza, eh? di struttura, insomma, comunque ed è un par d'anni dopo, è lo stesso cantante che era nel più famoso e più importante gruppo punk, eh? Vabbè, cioè, nel senso, Sex Pistols, ok, però inquadrati musicalmente è un rock and roll rozzo, sì, però un po' più tirato, eccetera, eccetera. Qua sì, che come definisci sta roba? Non si sa, perché è un mischione. A volte è anche difficile dire che mischione è. Infatti è come si dice? No, è crossover, forse, no? Sì, si dice forse crossover. Però lo sai che c'è pure il termine crossover, che oramai sono queste cose, certo. No, poi sono queste cose un po' giornalistiche, una cosa che attraversa i generi. Qua è proprio difficile da capire come situare la cosa, perché in effetti è il risultato di un bassista reggae che veramente già Vubolo si è imparato a suonare il basso in 2 settimane, perché voleva suonare con Johnny Rotter, che voleva fare il gruppo, e lui era l'amico, era uno con cui uscivano insieme. E succedeva questo, cioè la serie tipo famo un concerto, ok, ma impara a suonare basso, andiamo a suonare, va bene, cioè, perché era una cosa che, voglio dire, vabbè, ma non era proprio alla portata di tutti i giorni di fare una cosa figa, no? Per cui magari uno andava lì, rimediava il basso da qualcuno che c'aveva nel palazzo, oppure qualche amico, si metteva a casa così, poi se impari, impari qualche giro e poi va a suonare, perché no? Cioè più o meno come si impara a suonare così, come se e quella lì è una forma quella musicale era probabilmente ai tempi la forma di espressione più alla portata di uno disadattato che viveva nei sobborghi londinesi, fondamentalmente, insomma, direi questo. E quello ovviamente che ne esce fuori è qualcosa di inclassificabile più che di commissione di generi, perché veramente io i Pill poi in assoluto penso sia veramente un qualcosa di veramente difficilmente classificabile a livello musicale. Allora, una cosa che ti volevo dire per andare poi a ascoltare l'altro pezzo e te lo introduco così, è che di tutta questa gente noi spesso non conosciamo i nomi veri. Se prima ricordavamo, insomma, la commissione con tutta la cultura del ghetto nero, in particolare di Brixton, e i neri sono probabilmente stati i primi che hanno rifiutato i nomi dati dai loro padroni bianchi e hanno deciso di utilizzare altri nomi, Malcolm X è uno, insomma, probabilmente dei più noti, per dire ok, facciamola finita con la cultura del padrone bianco e iniziamo a riappropriarci di quello che sono le nostre radici. I punk non avevano radici, ovviamente, quindi si riappropriavano semplicemente di un loro pezzetto di vita. Da là Johnny il Marcio, che ti posso dire, Billy l'idolo, Rat Scabbi, il topo con la scabbia, Siuxi, eccetera eccetera. Difficilmente troverete qualcuno che si firmava con, insomma, nome e cognome ai tempi, per ovvi motivi, spesso anche perché se facevi sta roba magari era meglio che tua madre e tuo padre non lo sapevano, visto che comunque parliamo di ventenni comunque alla fine. E quelli che andiamo ad ascoltare sono un'altra band che esplode in pieno 77-78, fa questo primo disco che si chiama Germ Free Adolescence, quindi già, insomma, parliamo di gente, insomma, che è molto giovane, e la cantante si chiama Polistirene, quindi c'era un motivo, perché, insomma, se voi la vedete era vestita completamente, insomma, di vestiti sintetici neri, e, insomma, probabilmente questo era il motivo del suo soprannome. Parliamo degli X-Ray Specs, e questa è O Bondage Up Yours, sempre l'anno, mazza, va una bomba. People think little girls should be seen and not heard, but I think, oh, bondage up yours! 1, 2, 3, 4! Bye. Allora, X-Ray Specs, un altro esempio di sonorità che si va ad evolvere da quello che è il punk del 77, perché insomma ci piace tracciare una linea di sonorità che poi si vanno a contrapporre a tutta la mega produzione che era diventata il punk, e quindi lo stiamo raccontando attraverso i suoni che accadono dopo quel periodo lì. Uno di questi, insomma, è X-Ray Specs, no, ti vedevo pronto per un... Ah no, poi non ci stai, quindi... Sì, no, insomma, stiamo esplorando, insomma, appunto queste sonorità. Ci abbiamo pronto in scaletta un altro pezzo, lo vuoi annunciare? Lo sai che non me lo ricordo, annuncialo te, poi se voglio ti dico qualcosa, se non voglio no. Gli Wire. Gli Wire sono un po' gente che, insomma... è stare in giro pure con Brianino, insomma un po' più intellettualoidi così. Il primo disco è molto nella attitudine punk, anche se sono stati i primi che hanno fatto i pezzi tipo da 40 secondi, roba del genere, quindi con una dirompenza differente. E poi dopo hanno deciso di intraprendere completamente un'altra strada e la ascoltiamo in questo tipo di sonorità che secondo me già rispetto a questo trittico che abbiamo ascoltato, X-Ray Specs, Suicide the Banshees e Pill, già sta su un altro pianeta completamente. Stiamo parlando comunque del 79, quindi siamo sempre lì, eh. Say please as you accept the next dose of disease. Allora, insomma, anche qui un altro esempio di esplorazione dei suoni. Poi ci ritroviamo un sacco di roba poi in questa traccia che dà rimandi poi a quello che sarà il suono del Britpop anni 90. Uh-huh. Ti ricorda quello che, c'è, che c'era nel passato, quindi Beatles, non so. Sì, cioè, effettivamente insomma sono due cose che assolutamente ci stanno in questo tipo di sonorità. Dall'altra parte c'hai tutto un modo di suonare assolutamente non convenzionale rispetto almeno a quello che erano i tempi. Sempre decadente. Molto decadente. E anche un utilizzo di strumenti elettronici che non ne abbiamo parlato assolutamente, ma la faranno da padroni per tutti gli anni 80, perché effettivamente insomma la rivoluzione elettronica che probabilmente è partita in Germania soprattutto, ma che poi si estenderà tantissimo nelle sonorità che andremo ad ascoltare insomma anche fra poco, la farà molto molto da padrone, perché c'è proprio un suono freddo, secco, che ci sta bene con questo tipo di atmosfere e di anche di messaggi che si vogliono raccontare. Sta canzone parlava di una mosca, del punto di vista di una mosca. È un po' un nonsense, però come dire, che cosa c'è di più spregevole di una mosca di cui parlare? Ritorniamo sempre in questo contesto. Fra l'altro qualcuno diceva: ah, ma Ja Wubbel è tipo mezzo irlandese, è bianco, così. Ma uno che si chiama Ja Wubbel può essere, cioè, dice tutto. Dice tutto. Va bene, no, no, un'altra, cioè, un'altra cosa che un po' risiede nelle origini, insomma, di questa puntata, che è un po' speciale per Do It Yourself Invasion, perché è un'occasione di esplorare. Perché insomma un po' nelle, diciamo, le sonorità insomma che manda Do It Yourself invece sono più legate all'hardcore o al punk UK 82, quindi il punk più metallaro tipo Discharge. Mm-hmm. C'è questa, questo filo un po' insomma nelle sonorità di questa trasmissione. Noi volevamo appunto andare ad esplorare un altro pezzo di strada. Sì, che ci sta e che sempre strada è, come insomma abbiamo provato a raccontare un po' durante questa trasmissione. Poi ovviamente molta di questa gente di cui abbiamo parlato ha fatto la sua strada oltre la strada, quindi nel business musicale, assolutamente, questo ne siamo assolutamente consapevoli, però a noi quello che interessa è andarvi a fare ascoltare delle cose, perché a noi perché poi fondamentalmente è quello che a noi un po' ci stuzzica questa cosa, è perché poi la continuiamo a vedere. Molti dicono che il capitalismo questo fa fondamentalmente, fa uscire fuori le cose che magari in un certo momento non sono, come dire, alla portata di tutti, o sono a volte al contrario completamente provenienti da dei contesti che non hanno nulla a che fare con lo smercio, se non quello probabilmente di sostanze, perché bisogna pur campare in qualche modo, di sesso, perché bisogna pur campare in qualche modo, e quindi spesso si appropria in maniera completa, come poi è successo con tutto questo giro qui, delle cose che escono dalla strada, le mette a valore, le fa diventare un business commerciale, eccetera eccetera. Quello di cui volevamo provare a parlarvi è dell'altra faccia della medaglia di questa cosa, ovvero che queste cose poi effettivamente spesso, almeno nel contesto di cui ne abbiamo avuto modo di parlare questa sera, vengono proprio fuori proprio dalla strada, dai proletari, da gentaglia, da tutto quello, tutta quella masnada di persone che erano appunto il Bramley Contingent, che sono tutt'oggi, no, i ragazzi e le ragazze che vivono per la strada, sui muretti, nei bar, nei punti di ritrovo, magari oggi forse un po' più su internet probabilmente, però insomma questo era un po' il discorso. Insomma, noi partiamo appunto da questa storia, da una storia di strada, e quest'oggi l'abbiamo fatto appunto andando a raccontare appunto le origini senza nessun sì, poi origine in realtà cioè... è sempre in intreccio, c'è poco di origine qua. Sì, no, vabbè, abbiamo scelto un punto per raccontare una storia, mm-hmm. E questo è in questa puntata lo facciamo un po' di più attraverso i suoni, però già vi annunciamo che ci saranno altre puntate probabilmente per andare a raccontare altri pezzi di strada, uh-huh. Insomma, no, è molto stimolante. Ok, dai. Ci fa piacere, ci sentiamo l'ultima e ce ne andiamo? Come vuoi. Sì. Ci abbiamo ancora, non lo so, dimmi tu, te sei quello che tiene il tempo. Ma dai, anche un paio di tracce. Un altro abbiamo, paio. Sì. Allora, secondo me mo ci dovrebbero stare tipo i Killing Joke, vero? Ecco, i Killing Joke. Che si apre un altro nodo. Si apre un altro mondo, perché poi i Killing Joke sono uno di quei gruppi che cioè dai Nirvana a che ti posso dire? Tutto l'industrial metal. Ma anche a Fatboy Slim, cioè se te dici quali sono le loro influenze, te trovi Fatboy Slim che ti dice i Killing Joke, Metallica, che mi sa che forse hanno fatto pure una cover dei Killing Joke, mi pare. Ma hanno fatto pure un disco con Lou Reed, vabbè, per dire. Vabbè, però insomma lo citavano fra le loro influenze. Lutallica. Luta, ma perché siamo andati a finire a parlare di no, però vabbè, sì, okay. Stavo parlando di Nirvana, sì. Ne parlano, quindi perché no? Cioè, perché i Metallica sì, Nirvana no. Vabbè, c'hai ragione qui. Infatti per me è uguale. E comunque vabbè. E poi ricevi tu tutto il lato, dai. No. Invece, siccome il tempo stringe, okay, andiamo subito a sentire. Cioè, perché è un piacere ascoltare i Killing Joke. Qui con il loro pezzo che ha scelto. Che? No, niente. Killing Joke. We'll be right back. siamo, eh? Allora, sì, ok, no, vabbè, i momenti di grande radio. E sì, no, siamo molto contenti di ascoltare questi suoni, insomma, eravamo rapiti appunto nelle pessimi. Va bene, sì. Niente. Non so, dillo a parole due, che ne so. No, niente, no, stavamo appunto esplorando le sonorità del post-punk, insomma, per, come base per le prossime puntate. E questi erano i Killing Joke, già un mondo a parte, no? Lo dicevamo prima. Sì, no, assolutamente un mondo a parte rispetto, penso, a tutto quello che abbiamo sentito finora. Boh, che... come fai? No, che ne so, cioè, Fat Gadget. Ah, quello dopo. Ah, certo. Te dici, come ci riallacciamo a Fat Gadget? E beh, c'è tutta, pure qui, pure nei Killing Joke. Il cane sta provando a scavare una buca nella radio, mo, se lo sentite in sottofondo, comunque. Sì, è fighissimo. È molto bello. I Killing Joke, come dicevamo prima, iniziano a utilizzare timidamente delle elettroniche, che poi ritroviamo tantissimo in molti altri gruppi, come dicevamo prima. Ma ci stanno dei gruppi, anzi, dei solo, perché Fat Gadget è uno da solo che inizialmente suona con una band, poi decide che ne so, avere a che fare con le macchine forse è più simpatico. Do it yourself totale. Totale, sì. E si inizia a fare le basi, lui insieme a qualche amico suo, e inizia a fare quello che... Poi ci stanno altri gruppi, insomma, che escono fuori successivamente su questa falsa riga, Dui, Tri... C'è pure il trio, quello di Da, che più o meno viene verrà fuori da questo delirio. Però Fat Gadget è uno che accoglie un altro filone, che di cui non abbiamo parlato assolutamente stasera, che è quello della musica industriale. Forse quando parleremo di Germania, anche se il primo gruppo, insomma, i primi gruppi nascono in Inghilterra, i Throbbing Gristle sono stati in assoluto il primo gruppo che inizierà a fare questa roba. Però insomma, un'ondata che nasce soprattutto dalla Germania con i Kraftwerk, che è quella dell'utilizzo dell'elettronica. I Kraftwerk sono un gruppo sontuoso come i Tangerine Dream, no? Insomma, che sì, poi hanno, insomma, un loro punto nevralgico in tutta questa storia, però sono comunque un gruppo sontuoso importante, che è molto più simile a Pink Floyd piuttosto che a Suzy and the Banshees. E molti ragazzotti con i loro organi buontempi di allora, con qualche batteria elettronica che si programmava con quattro tasti, si mettevano a fare queste cose. A volte uscivano cose egregie, a volte di meno. Troviamo le sonorità appunto cupe industriali del puro rumore, ma troviamo anche chi inizia a cercare di costruire dei suoni attraverso, insomma, queste macchine, che vadano oltre, diciamo, il sinteticismo totale teutonico dei Kraftwerk, che siano un po' similari più a quanto abbiamo ascoltato proprio adesso. Fat Gadget è uno di questi, veramente mi sconosciuto, però veramente veramente avanti anni luce probabilmente rispetto a tanti altri. Andiamocela ad ascoltare. Yeah. Allora, un altro esempio di sonorità che vanno ad esplorare altri campi, pur mantenendo sempre lo stesso gusto per la decadenza e per l'oscurità, no? Sì, penso sì, si sentiva parecchio, nonostante insomma i tentativi, poi in realtà perché noi queste sonorità, questi tipo di suoni siamo abituati molto a sentirla insomma nella musica pop, quindi fanno effetto magari a volte usati in questa modalità qua. Però ricordando che è un pezzo del 79, sì, se non erriamo. Assolutamente. Quindi insomma era abbastanza dirompente per rispetto a quello che era l'idea di rock classico comunque, no? Sì, assolutamente. Poi Fat Gadget suonava praticamente in questo tipo di situazioni da solo o comunque insomma con qualcuno dietro che non si vedeva, era un uomo macchina in qualche modo, però non con quel tipo di, ripeto, di modalità kraftwerkiana che è molto da pulitina, pulita, imperialista, asettica, imperialista. Sì, qua passa a parlare di insomma di un altro fuori di testa come tutti quelli di cui abbiamo parlato questa sera, quindi insomma anche le parole e le canzoni sono abbastanza collegate con quello che è la vita di strada. Allora, nonostante molto spesso poi che ne so, in tutti questi discorsi qua riecheggiano a volte libri, riecheggiano a volte personaggi insomma della cultura dei tempi, da un lato la cultura pop dei tempi era molto ma molto più vasta di quella attuale, ricordiamocelo sempre questa cosa, per cui un personaggio tipo William Burroughs per esempio che riecheggia, o Ballard, mm-hmm, che riecheggia molto in tutto questo tipo di cultura, in realtà è cultura pop, non è cultura elitaria per come la conosciamo oggi, era cultura underground se vogliamo, era la cultura insomma dei compagni e delle compagne. A volte quando insomma non erano interessati a studiare i testi canonici del marxismo, quindi insomma faceva parte insomma di una cultura pop in generale, e questa roba rientra in qualche modo da tutte queste parti e la ritroviamo forse col gruppo più proletario di tutti, che viene da un posto di merda come Manchester, ce ne stanno 3-4 gruppi che da Manchester verranno fuori pure belli interessanti. Abbiamo ascoltato buona parte di roba di stasera che era tutta più o meno da Londra e sobborghi, ma arriviamo a Manchester che insomma è veramente un postaccio. Sì, con confermo, è brutto proprio. Faccio un altro collegamento con sempre l'uso di un immaginario di rottura, perché il nome del gruppo è Joy Division. Sì, pure là proviene sulla falsa riga. Guarda, ci stanno due cose secondo me che sono su questo gruppo, che sono i Joy Division, che è probabilmente il gruppo più importante di tutta di tutto, almeno per me insomma penso sia un po' per tutti il punto nevralgico di tutta questa storia, perché partono proprio pure loro, andando a vedere i Sex Pistols che suonano a Manchester, un localetto che era un locale hippie che viene trasformato in un posto dove suonano i gruppi punk. Il primo gruppo punk di Manchester sono stati i Buzzcocks, che comunque sono un gruppo abbastanza importante nell'ambito punk, certo. Loro hanno sofferto molto inizialmente una competitività con i Buzzcocks e poi hanno capito che non dovevano suonare a quel modo lì, infatti poi sono diventati tutt'altro. Il pezzo che andiamo a ascoltare fra poco è proprio la summa del tutt'altro di tutta questa roba, però pure loro vengono fuori da lì come il Brownie Contingent e come tutti i sottoproletari, anche loro emersi in piena tradizione punk, non sapendo suonare, non sapendo cantare, non sapendo fare probabilmente niente. Molti di loro facevano dei lavori di merda. Ian Curtis, il cantante, lavorava in un posto tipo il trova lavoro, il collocamento più o meno per le persone disabili, quindi insomma voglio dire No, a me interessa poi cioè, contestualizzare questo questo humus di provenienza poi con quello che era la riproduzione in suono di quello che vivevano, cioè assolutamente non c'è niente da ridere, No, non c'è proprio niente da... Ma no, su Manchester non c'è niente da ridere. Guarda, ci stanno così, visto che ogni tanto ci diamo delle cose da leggere o da vedere, ci sta un film bellissimo che è Control, sulla storia di Joy Division, che li riporta in una dimensione, perché ricordiamoci sempre che ormai anni di mass media ti fanno vedere poi le cose in maniera diversa. E il film Control, che è un film su Ian Curtis e comunque sui Joy Division in generale, te li fa riportare su una dimensione che è totalmente banale, stupida e veramente della provincia inglese, che è una merda, e questo non c'è dubbio. Ci sta un documentario che è uscito ultimamente che si chiama forse The Sound of Music, comunque con un nome di un pezzo di Joy Division, adesso non mi ricordo, che vede tutta una serie di interviste agli attuali Joy Division, che poi sono diventati New Order, che sono un gruppo molto più famoso di Joy Division, che ha fatto molti ma molti più soldi dei Joy Division, in cui proprio parte così. Questo è Manchester, qual è il suono di Manchester? I Joy Division, senza dubbio, perché una tale quantità di merda non poteva che generare questo tipo di cosa. Manchester ha vissuto delle forme di gentrificazione e di disintegrazione urbana gigantesca. Manchester è stata una città che è stata bombardata completamente durante la Seconda Guerra Mondiale, è stata praticamente rasa al suolo, è stata ricostruita attorno alle fabbriche che giravano intorno a Manchester, quindi è stata in realtà un quartiere dormitorio per tutti i proletari che andavano a lavorare dentro le fabbriche di Manchester. E poi successivamente, durante gli anni '80, tiravano giù tutti questi casermoni per iniziare a fare dei caseggiati per la piccola borghesia, che chiaramente era attirata comunque da tutto l'indotto che chiaramente si è costruito nel momento in cui le fabbriche si iniziano a spopolare e la disintegrazione, insomma, della fabbrica sul tessuto urbano e provinciale, insomma, della città di Manchester ha visto proprio tirare giù al suolo, un po' come è stato fatto a Berlino dopo la Seconda Guerra Mondiale, per ritirare su nuovi quartieri. E a volte te tipo passeggiai per un pezzo di città di Manchester, una via in particolare, e tipo passai la settimana dopo e trovai tipo tutto raso al suolo perché stavano rifacendo da capo tutto. Questo è un po' il tipo di contesto urbano e sociale, e quello che veniva fuori da Manchester nel 1980, 79-80, sì, questa roba qua. E forse è il pezzo più elettronico di tutti. Bah, c'è poca chitarra. Silence, don't walk away. the rivers, through the streets, every corner, abandoned too soon, set down with due care. Sì, questo era il pezzone dei Joy Division, Atmosfera, che insomma conosciamo un po' tutti e tutte. E vabbè, insomma, questo andiamo a chiudere tra pochissimo la puntata di questa sera. È un'esplorazione che noi facciamo da questi microfoni all'interno di questa trasmissione, che va un po' abituato, insomma, gli piace, insomma, andare a proporre sonorità più vicine all'hardcore. Lo diciamo prima, UK 82, una sonorità punk stradaiola di un certo suono specifico, se volete, che poi si ricollega all'hardcore italiano e tutto quanto. Però insomma volevamo esplorare questo sottobosco, quest'altro filone che è stato generato dal punk. Lo facciamo attraverso i suoni, lo faremo probabilmente in prossime puntate dedicate magari ai suoni italiani, a quello che è più magari l'autoproduzione, appunto, di proposte italiane. Un po' questo, insomma, quello che ci abbiamo un po' all'orizzonte. E dall'altro, questa cosa che tu dicevi mi ricorda il fatto che magari fino a qualche tempo fa se andiamo un po' tutti a vedere tutti, cioè questa compartimentazione che viviamo oggi è frutto dei fenomeni forse un po' troppo identitari che ci viviamo un po' tutti quanti, per cui ci sentiamo bene solo quando stiamo insieme a quelli che so come noi. Però da una parte pure fenomeni commerciali. Probabile, sì, ci sta molto questo, perché una volta che te hai compartimentato poi puoi vendere, questo non c'è dubbio. Allora c'hai i posti dedicati a quel tipo di suono, certo, quell'ambiente, sì. Quell'altro tipo di suono. Insomma, vabbè, noi però noi proviamo a rimettere tutto in discussione. No, abbiamo iniziato questa puntata questa sera partendo dalla strada. Ci manterremo sempre sulla strada. Sì. Ma non quella di Kerouac. No. Una strada sporca e oscura dei vicoli bui, insomma, dove nascono le cose e niente. Però ma sempre a salabile fuori quello che esce, dai. Va bene. Allora, no, ti ringrazio, Scarf, per aver partecipato questa sera. Io pure ti ringrazio. I ringraziamenti, no, perché avevi iniziato dicendo a me i ringraziamenti non piacciono. Ok, va bene. Vabbè, hai rifatto, quindi. Niente, recidivo. Ok, allora l'appuntamento per Do It Yourself Invasion è per martedì prossimo dalle 21 alle 22:30. Ricordiamo domani sera una modalità, quella che preferiamo di più, che è quella di incontrarvi in un'iniziativa a 100 celle aperte, quindi dalle ore 19 la presentazione della nuova scarceranda e a seguire cena una chiacchierata collettiva, appunto, ispirata a scarceranda. Quindi domani l'appuntamento alle ore 19, se non erro, a 100 celle aperte in via della Resede. E quindi grazie. Sì, no. Ah, Via delle Risate 5, giustamente. Quindi grazie a tutte e a tutti per l'ascolto. Per l'ascolto. Il nostro saluto più caro va a tutte e tutti coloro che si trovano privati e private della libertà personale. Un abbraccio, rimanete sintonizzati perché tra poco inizia Morfire.